quindi dipende da come si mette, se orizzontale, se verticale, insomma, cambia un po' tutto, ecco, la posizione e il punto di installazione vuol dire molto, anche se siamo in una frequenza relativamente bassa e siamo a cavallo tra l'inizio delle VHF e la fine delle HF in pratica. Giulio. Sì, avanti, dimmi Giovanni. Mi dava sentire che hanno suonato, che sta venendo gente per cui devo approfittare. In caso mai che mi sono prima già rientro. Sino che ne devi salutare due. Ciao Giovanni e ciao Giulio. Ok, riprendi. Ok, ciao Giovanni. Fatti sentire di nuovo, magari se l'ospite va via. Sì, intanto saluta Gio Maria, vai, poi continuiamo. Sì, ciao Gio Maria, buona serata, ci sentiamo. Niente, riprendi, lascia Luca per i saluti, dai, Luca riprendi. Sì, ciao Gio Maria, dai, ci sentiamo dopo, riprendete che sta aspettando una chiamata. Va bene Luca, riprendi Giulio, sì, sto guardando più su, però il fatto di ripunti è particolare comunque, perché è una zona molto aperta rispetto al circondario, a parte per l'handicap di Monte Oro, però in linea generale, ad esempio su a Monte Tignoso è molto, molto performante. Sì, però non per la zona di Alghero, praticamente Monte Oro siamo già sulla strada per andare ad Alghero, ecco qual è il problema. State bene ad Alghero, io non è che ci arrivo molto bene, sì, arrivo, li sento lo stesso, però con segnali bassissimi, per cui no, è tutto un altro discorso. No, tornando al discorso l'antenna che io praticamente, tu immaginati, tu hai detto che era Game Mass, con la stessa antenna praticamente, però autocostruita da me, perché ne ho ricavato tutte le misure dal computer, ne ho ricavato, che ci sono diverse in diversi siti ci sono le misure per la Game Master, e io ne ho rilevato e ho fatto esattamente le stesse misure che del computer. Quando poi ho messo il rosmetro per vedere se c'erano stazionali, stazionali era 1-1, boh, basta, fatto su tutta la gamma, su tutta la gamma della 27, addirittura anche i canali alti e anche i canali bassi, perciò l'ho lasciata così, e da allora diciamo che mi ha invogliato a lasciarla sempre, e ne ho tolto la Mantova Turbo. Perché l'ho tolta? Non perché non andava bene, andava benissimo, anzi anche troppo bene, solo che la notte quando soffia il vento è tremenda, mi fa un chiasso, siccome io ce l'avevo attaccata proprio nel muro, nella parete dove c'è il letto, se che ti puoi immaginare alle 2 o 3 di notte quando soffiava un vento forte e i radiali fischiavano, e allora è per quello che l'ho tolta, se no l'antenna è nuova, mi ce l'ho sempre, non è che l'ho eliminata, no. Mi capito già qua. Tornando al discorso di Polo, il Polo lo sappiamo benissimo, se non è messo ad una certa altezza dal suolo, dal tetto, là in questi casi, e allora il discorso cambia molto, perché tu mi insegni che il dipolo, se non ha una certa altezza dagli ostacoli, almeno 3-4 metri minimo dal tetto, non ha quella resa che realmente deve avere. Sì, capito o già fra, cosa intendo dire? Sì, ho capito, ho calcolato anche la radiale che c'è tra te e ad Alghero, praticamente Alghero città ovviamente, e tu passi praticamente dalla tua quota, incroci una quota più elevata, questo non è magari molto importante qua in 10-11 metri, però in UHF sarebbe molto importante, ad esempio. Tu ti sbatti contro degli ostacoli che arrivano anche a 180 metri, che sono esattamente, dovrebbe essere, vediamo di scendere un po' per vederlo, è proprio incroci in pieno qualche installazione lì di Monte Oro, che si va a trovare, per intenderci, sulla, andando verso Alghero, sulla sinistra dalla strada che da Vecchia Valghero, dai, quella che è attualmente in uso, perché quella nuova sembrerebbe chiusa. Quindi il paralghero si è coperto, in effetti, mentre dovrebbe essere totalmente libera sulla parte marittima, diciamo, Porto Torres, Stintino, tutte quelle zone lì. Sì, da quella parte sì, l'ho visto il dubbio, quello sì. Tu pensa che io sono riuscito anche ad arrivare a tempo tranquillamente, da qui che non è semplice, poi col baracchino non è semplice arrivare a tempo, e non solamente a tempo, ma anche addirittura alla Maddalena, tramite ponte mi sentiva, io a lui non lo sentivo, però tramite ponte di un amico, che tra l'altro è anche un animatore, che adesso non sta entrando, si frequenta un po' di tempo che non sta entrando, ma aveva fatto la ponte perché lui si trovava a tempo, si trovava in macchina, e c'era questa dalla Maddalena che stava chiamando, però io non lo sentivo, lui lo sentivo perché si trovava a tempo, e poi ha chiesto se mi sentiva a me, e quello là ha risposto di sì, lui mi ha fatto la ponte, ma si sente anche alla Maddalena, e non è poco, non è poco, però per Salghero c'è da fare. Poi tra il discorso altezza, per il dipolo, sì è vero, magari l'HF è ancora più influente l'altezza dal suolo, però tieni in considerazione che la 27 sono sempre onde corte, per cui è un'onda di 11 metri, che poi la portata diventa anche meno di 11 metri, pertanto il discorso viene, l'ostacolo è micidiale, per quello lo risente moltissimo l'onda portante o gli occhi. Sì, Giulio, ma considerando, diciamo, adesso perché essenzialmente stiamo parlando di qua degli 11 metri, ma se, quindi ti ho detto che c'è questo comportamento un po' strano, perché siamo a cavallo tra un'onda molto corta e un'onda corta, ecco, caratteristica onda HF, tra HF e VHF, in quale si colloca la 27. Ma se noi dovessimo scendere, tipo ti sugli 8 MHz, per intenderci, allora con l'antenna sta bene dov'è, anzi, probabilmente la dovresti abbassare, perché dovresti fare un dipolo che diciamo spari molto in alto in modo da rimbalzare verso il basso subito, tipo le antenne che usa la protezione civile, che non vengono mai messe in alto, vengono messe molto in basso perché non devono coprire distanze di parecchie centinaia di chilometri, di migliaia di chilometri, ma bensì di poche centinaia, tipo se vuoi parlare con Cagliari a un certo punto ti conviene mettere un'antenna molto bassa, le cosiddette antenne NVIS, che è la protezione civile, ecco, la mettono in basso così per avere maggiori rendimenti sulle frequenze molto basse. Sì, beh certo, quello sì, dipende, questo dipende anche dalle varie frequenze, secondo del lobo di radiazione, chiaramente ci sono dei momenti e delle modifiche che si possono fare, però come fai? Non si può stare lì a misurare se è in basso va meglio, se è in alto più basso, se è a destra o a sinistra, e che sto io, per dire, tanto per dire una, io tranquillamente arrivo in Corsica da qui senza nessun problema, e te lo confermo tranquillamente, perché c'è gente che ti può dare conferma, adesso l'amico non sta più uscendo in frequenza, per cui non lo puoi sentire, però mi ha sentito diverse volte, lui in macchina, trovandosi nella parte alta di Calvi mi sembra, e mi ha sentito più volte, poi io ci parlavo sempre, ma non da adesso, ci parlavo già da anni, da sempre ci ho parlato, perché una volta c'era un certo Antonio, si chiamava Corsica 1, si chiamava, e io lo sentivo tutti i santissimi giorni senza nessun problema, per dire, anzi ti dirò di più, questo amico di Sassari, che poi non è di Sassari, è di Porto Torres, mi ha sentito addirittura col PMR, tanto per dirne una, evidentemente c'è un varco molto buono tra me è quella zona lì che ho già qua. Diciamo che sicuramente c'è un varco, ma se parliamo poi di PMR, quindi di UHF, allora la cosa è anche più, molto molto più complicata. Perché ci sono delle zone particolari, qua stiamo iniziando a parlare già di metri, per intenderci. Io ti posso fare un esempio con i miei apparati, in comunicazione tra stazione base e portatile, ad esempio, quindi col gommino, tra qua e Alghero Porto, esattamente, però Porto non è inteso come il porto, attenzione, è inteso come l'uscita del porto, quindi dove c'è il faro diciamo quello dell'uscita dal porto, non so se ce l'hai presente il porto Alghero, quando tu esci sia con i pescherici sia con qualunque imbarcazione, c'è quella parte del molo nuovo dove c'è un faro che è abbastanza bassa. Ecco, da lì tu arrivi col portatile tranquillamente verso la mia stazione. Se da lì percorri qualche neanche un centinaio di metri, basta anche una cinquantina di metri, verso, che ne so, la torretta che c'è, il castello, dai, dove c'è attualmente la capitaneria di porto, dove ci sono le vedette e i gommoni ancorati, non si sente neanche a ruccio, non arriva proprio a segnale, quindi bastano metri di lì, perché c'è un parchetto evidentemente che ti permette di arrivare. Sì, c'è stato un break, boccante, avanti il break, vuoi entrare? No, non vuoi entrare, forse si è stancato. Sì, beh, certo, te lo sto dicendo, c'era un buraco, guarda, ti voglio raccontare un aneddoto che risale agli anni 70 e 80 anche. Io abitavo allora nell'altra casa e avevo semplicemente una Grand Prix dell'Allende attaccata nella ringhiera della finestra. I radiali addirittura poggiavano sulle tegole perché c'era il tubo, io sul tetto non potevo salire e allora avevo installato questa antenna sulla finestra, sul terrazzino, dai, sulla ringhiera di ferro. Io tutte le tantissime notti, io e Ivan Biusilo, l'ex CB che ormai non si è più sentito, non so che fine abbia fatto, parlavo sempre con l'isola d'Elba tutti i tantissimi giorni, d'estate, d'inverno, in qualsiasi momento, con una ragazza parlavamo, io, lui e questa ragazza, e facevamo queste o tre, tutte le notti immancabilmente, per dirti no, o già fra. Evidentemente c'è un bel varco che ne posso usufruire, mentre invece per Alghero niente da fare, chiuse le porte per me. Sì, perché sono fenomeni così che capitano, a volte ti capita un giorno e a volte ti capita tutti i giorni, è così. Giulio, un attimino di stand by che mi stanno chiamando e arrivo subito. Ok, d'accordo. Marino, ci sei in ascolto? Sì, Giulio, sono rientrato, mi hanno chiamato per una comunicazione di servizio. Ok. Sì, capito cosa intendo dire, Gianfra. Pensa che negli anni... scusa un pochino la tosse, anche un po' di raucine oggi. Stavo dicendo, negli anni scorsi, ma io parlo di tanti anni fa, ai tempi di, tanto per capirci, di Telecciocco, ecco, Tele Monte Carlo, quando Sassari c'era Tele Monte Carlo, la televisione, parlo di televisione questa volta, no? Io ripeto, come ti ho detto poc'anzi, avevo il tubo nella ringhiera, no? Perché la staffa l'avevo stretta, sì, ma non così tanto, potevo girare, il tubo lo potevo girare con le mani, con la forza delle mani ce la facevo a girarlo, perché non era stretto eccessivamente il tubo del... Allora, a questo punto l'antenna della televisione la potevo puntare in vari posti. Io cosa avevo fatto? Avevo fatto tanti segni, sia sul tubo che sulla staffa della che manteneva il tubo. E io volevo occupare delle stazioni della televisione che arrivassero qua. Beh, ti dirò che io a Sassari vedevo Tele Monte Carlo quando Sassari se lo sognava, Tele Monte Carlo. Poi è arrivato col discorso Fusaro, eccetera, eccetera, sappiamo quello che avevo fatto, eccetera, no? E un'altra notizia, Rai 3 Toscana, quando Sassari e Rai 3 non ce l'aveva, cioè telegiornale di Rai 3 se lo sognava, io già vedevo Rai 3 Toscana, per dire no, avevo tutte le posizioni, cambiavo e prendevo il canale che volevo allora, in quel periodo lì, però abitavo nell'altra casa, ripeto, non qua. Sì. Ci sono zone, io ti posso dire che anche le zone alte, per dire, io c'ho un amico che abita a Finigheddu in alto, molto in alto, e non riesce a ricevere Monte Oro, cioè proprio hanno dovuto mettere un palo contro palo, eccetera, perché uno pensa che sia zona alta, dici che ne so, Finigheddu, e caspita, beato lui, e invece c'è una specie di piccola discesa, no? Una conca si potrebbe chiamare, ed è lì proprio non c'è verso. Tu fidati, voleva mettere anche una connessione via radio per internet, no? Link, sono andati, l'hanno fatto solo quando hanno detto mi spiace ma non c'è niente da fare. Si è dovuto mettere l'antenna satellitare per andare su a ricevere la connessione inter via satellite con dei costi veramente abbastanza elevati, proprio perché ci sono anche zone che dovrebbero essere fortunate, però ti basta questa conca che ti mette la montagnola avanti. Vedi, noi ci lamentiamo che abbiamo Monte Oro, una centrale stanza, però bene o male si supera. Il problema è se ce l'hai vicino, anche se sei alto, perché se ce l'hai vicino e quindi c'è un muro davanti, è un macello, quindi è così. No, poco fa mi hanno chiamato Giulio perché mi hanno dato un'altra bella notizia, che praticamente mi si è girata totalmente, anzi si è proprio inclinata l'antenna che ho per puntata sull'Imbara, per il digitale di Monte di Bara. È un'auto costruita leggerissima, quindi il vento se l'ha proprio, se l'ha girata come voleva lui. È autocostruita, quindi solo che adesso non ci posso salire, adesso c'è già buio, questo orario del pifero, sono le 7:15, figurati, forse c'è anche umido. Sì, allora ti voglio raccontare un po' la mia storia, diciamo, dai, quando ero ragazzo, io prima di fare falegname, che poi ho fatto tanti anni di artigianato, di artigiano, eccetera, no, vabbè, a parte quello, io in realtà ho iniziato a lavorare che avevo 10 anni e mezzo e andavo a lavoro, a scuola, da scuola a lavoro, dal lavoro a casa. Ascolta, cosa facevo? Facevo l'elettricista, tanto è vero, io sono mestiere, io ho fatto 12 anni di elettricista. Nel contempo facevo anche l'antennista TV, allora esisteva solo primo e secondo canale, non c'erano altri canali Rai qui, perlomeno qui in Sardegna, e lavoravo con Antonio Scarpa, io ho tante antenne di Sassari e zone limitrofe a Sassari, vari paesi, eccetera, ho fatto dei lavori di antenna, dei installatori antenna. E dunque ho fatto l'antennista, no? Allora, ti volevo dire questo. Siccome ho sempre avuto la passione per questo tipo di lavoro, poi vabbè, è successo che ha fallito la ditta dove lavoravo, allora mio padre, capo operaio in un'azienda, mi ha detto, io vieni con me quando stai a trovare lavoro, e lì sono andato e mi ha insegnato il mestiere, eccetera, eccetera, e poi sono diventato falegname, eccetera. Vabbè, ma a parte questo discorso, e ti stavo dicendo, io a Iti avevo installato un'antenna, questa antenna non c'era di meglio che potesse entrare il segnale nella maniera più assoluta in una campagna, in Iti. A un certo momento ti vedo questa montagnetta, ti vedo a distanza, quanto sarà stato? Sono stato 150 metri, 100 metri, cosa del genere, e c'era questa montagnetta di terriccio e pietra, eccetera, faccio, ma quella l'antenna la su di chi è? No, è il mio sempre. Faccio, ma se mettiamo un'antenna lì e poi ne mettiamo una a casa, io mi sintonizzo lì, possiamo fare questo lavoro? Allora, so io, se va bene, e proviamo. Siccome non entrava segnale in nessuna maniera, allora ho installato questa antenna in questa montagnetta e mi ha fatto da ripetitore. Io, anziché puntare direttamente al ripetitore, ho puntato con l'antenna che avevo installato lì. Beh, ti dirò che sono riuscito ad ottenere un buon segnale, non un ottimo segnale, ma un buon segnale, e ho messo quella persona in condizioni di vedere la televisione. Per dirti quanto è strana una frequenza tante volte, Sì, quella lì, si chiamano ripetitori passivi, anche se ormai è tutto distrutto, si possono notare su, se vai all'Imbara dove c'era l'ex base della NATO, base comunicazioni, ce l'hai passato tantissime volte, di lì c'erano dei pannelli grandissimi che praticamente facevano quel lavoro lì anche, quindi ci puntavi la direttiva, e la direttiva ti permetteva di avere un segnale riflesso da un'altra parte che interessava a loro. E quelli sono ripetitori passivi, ce ne sono anche di molto molto, molto grandi, perché sono dell'astone della mira, poi se ti esce anche con un'antenna piccola, per effetti particolari ancora meglio, non ti accorgi tutto quello spazio. Così. E poi c'è anche il discorso che ogni frequenza ha un po' le sue caratteristiche, quindi e così. Poi adesso che c'è questa rivoluzione oramai quasi totale sul digitale, ancora peggio, perché ci sono tanti altri fenomeni da mettere sul conto. Tutti anche un pochettino complicati, ecco. Sembra così, ma è una cosa, insomma, sono discorsi che magari non è che si può fare con tutti, perché annoierei le persone, ma siccome so che tu bene o male ce l'hai questa passione per queste cose qua, allora te le racconto, te le sto raccontando, per dirti, no? Ecco come è la storia. Tornando al discorso antenna, cioè lunghezza d'onda della 27, sì, è vero, le nominali sono 11 metri, in realtà sì, ad esempio il solo fatto che usa un tipo di cavo in una radio rete trasmittente per la 27 è già la dice lunga. Cosa intendo dire? Supponiamo il caso, io uso per dire un RG58 per fare l'esempio, no? Quello lì ha il cavo di discesa, quello lì ha una velocità di trasmissione di 0,66. Se uso un altro cavo, come quello ad esempio che sto usando io adesso in questo momento, ha 0,83. Tu mi dirai, ma questi numeri a cosa servono? Servono, e come che servono? La lunghezza d'onda quant'è? 11 metri mediamente, no? Che poi magari viene ridotta di un 5% e si accorcia ancora, però oltre ancora a quello, facciamo questo discorso, 83 arrivare a 100 quanto fa? 17 metri, così è, praticamente l'onda portante che io in questo momento ti sto mandando si è accorciata di 17 metri, perché vedi bene che da 11 metri fa il calcolo, ecco perché ti ho detto, essendo onde corte queste, hanno difficoltà a scavalcare la montagna, come ad esempio Monte Oro, mi sono spiegato già fa. Sì, però c'è da dire una cosa, la teoria va bene quando è supportata da tutto un pacchetto di calcoli aggiuntivi e di condizioni completo. Quando la teoria inizia a farti uscire in testa, perché dice io ho fatto le cose bene, però con tutti i calcoli eccetera, però non funziona, E allora ti devi affidare all'esperienza, che è un'altra cosa, perché spesso la teoria viene smentita dall'esperienza, proprio perché la teoria non ha supporto. Tutti gli altri numeriti che però sono necessari per portare a termine l'operazione completa. E tra questi potremmo dire che zona è, che terreno è, che vegetazione soprattutto è, se c'ha dei pini, che ne so, se stai lavorando con frequenze molto alte è un disastro, perché il pino se le assorbe come se fosse un'altra di piombo. E dove devi puntare? Se devi puntare verso il cielo, quindi una zona abbastanza libera, e quindi occorrerebbe un'antenna piatta puntata verso l'alto, come si usa per le antennine GPS. Se devi puntare in zona orizzontale, invece la cosa è un pochino più complessa. E così vale anche per l'HF. Tu pensa, basta considerare la presenza, tipo come ce l'abbiamo qua in questa zona, degli elettrodotti. Come vanno questi elettrodotti? Quando c'è pioggia, quando piove, quanti effetti di scarica producono, e quindi quanto QRM sollevano. Insomma, ti posso dire carbonate, ad esempio, dove è Claudio, quando piove lì che c'è la centrale elettrica, mi era voglia di fare di calcoli, però se sputeremo questi disturbi generati da questi forti campi elettromagnetici, diventa un po' triste. Dovrai darti a un'antenna, preferibilmente tipo una loop che è chiusa, per eliminarli. Insomma, i calcoli vanno bene, però fino a un certo punto, dopo bisogna ingegnarsi, ecco, anche facendo cose strane. Ah beh, non ci sono dubbi, ma in toccati, appunto, avevo già accennato che l'altezza dal suolo è importantissimo, beh, è certo, soprattutto quando si tratta di dipuri, se noi li installiamo bassi, abbiamo stazionarie più di quanto non se ne dovrebbero avere, abbiamo resa inferiore di gran lunga a quella che realmente è. Poi è chiaro, soprattutto io sto parlando addirittura degli HF, questo è importantissimo. Se noi mettiamo antenne basse, si sa, sì, esce lo stesso, si sentono, li senti, tutto quello che vuoi, ma se vuoi veramente una stazione installata a modo, proprio col massimo della resa, tutti questi calcoli, appunto, che stai dicendo tu, bisogna tenerli in considerazione, certo, ma non solamente il fatto del piano riflettente, i pini o i pali o le cabine elettriche o la linea elettrica o l'alta tensione, è più ne possiamo dire di queste cose, certo, è che poi uno si deve affidare all'esperienza, però i numeri sono numeri, già fai, quelli bisogna sempre tenerli in considerazione, perché sono stati studiati e hanno verificato che si parte da quello, cioè poi da quei numeri, poi naturalmente l'esperienza farà la sua parte, anzi una grande parte. È ovvio, è naturale che i numeri sono importanti. Ripeto, l'unico problema è che bisogna averci di tutti i numeri, perché se ne è solo un pezzo, sai, il calcolo diventa molto relativo. Io ti posso dire che l'installazione principale a traliccio qua è distante 30 metri e anche per questa antenna che sto usando adesso, la Game Master ad esempio, cosa ci vuoi mettere per 30 più fai altri 15-20 metri, siamo 30, sono già 50 metri, 50 metri dal punto di vista dei cavi ad esempio è già una distanza importante, quindi per rimanere in un certo range devi lavorare per forza con H1000 almeno, ecco, io ci ho messo un H1000. Prima, dato che non usavo mai questa frequenza, ormai era un po' un disuso, facevo una vecchia Mantova 1 che c'avrò almeno, almeno una trentina d'anni. Prima c'era un RG 213, ma guarda, non è neanche il caso di fare raffronti con i segnali, ecco. Era come avere, che ti posso dire, un pezzo di fil di ferro attaccato, un carico fittizio quasi. Adesso col cavo nuovo H1000 eccetera è tutta un'altra cosa, sento anche segnali da fuori quando gli altri non li sentono. Sempre per andare sui 30 metri, 30 più, di lì sono 30 più, 30 più 20 dovrebbero essere sempre, quindi 50-55 metri di cavo per salire su. Parte è fatta con cavo speciale, messo i palloni alle VHF, che arriva sulla terra però, poi non può andare da altre parti dice un Cerflex, molto molto grosso, quello per i ponti radiocellulari, che non si può, bisogna per forza interrare perché non lo puoi neanche neanche piegare, tipo tubo d'acqua praticamente. Se no, misurato da punto a punto, no? Dato che ci piacciono i numeri, se tu trasmettevi con 10 watt scoprivi che su, già con H1000 te ne arrivavano 6, 7 al massimo, ma proprio al massimo. Quindi se è vero che perdevi in potenza, ma però più importante che perdevi in ricezione. E lì era veramente triste, perché il segnale perdere tanti dB, insomma, non va bene. Sì, beh certo, beh, quello dipende sempre dalla perdita del cavo. Secondo me, ecco, anch'io la H1000, in questa antenna che ho autocostruito, anch'io la H1000 è rigida, non è flessibile come ad esempio altri cavi, tipo l'RG213. Ecco, l'RG213 ha 0,66 di velocità di trasmissione, che arrivare a 100 sono 34 metri, ecco, stato per dire, tornando sempre in fatto dei numeri, pure ripeto, l'esperienza è l'esperienza, lo sappiamo, però se tu usi l'RG 213 ti accorci, la lunghezza d'onda ti si accorcia di 34 metri, ti si accorcia, perché da 66 a 100 sono 34, mentre invece dall'H1000 sono 0,83, da 83 a 100 sono 17 metri. Ecco, e questi sono numeri, tu mi dirai, ma probabilmente non si verificano a pieno queste differenze, però intanto i numeri già ti portano ad avere un indizio che poi tra l'altro uno lo rileva con la sua esperienza, certo, è ovvio. Il vantaggio dell'H1000 qual è? Che è scalmato al 100%, mentre invece altri cavi come ad esempio il 213 è scalmato all'85%. Mi dirà, ma sono tutti numeri che ci interessano o non ci interessano? Ma ci interessano, perché supponi il caso che la linea di discesa ti scende, ad esempio io che abito in città, lo vedo qui in Borgata, scende vicino al cavo del telefono o al filo di discesa della televisione, magari di un'altra persona che c'è vicino a me, e posso disturbare. Perché? Perché tu mi insegni che le interferenze nascono proprio dal cavo di discesa, oltre che dall'antenna, no? Però il cavo di discesa è il principale diciamo così, del danno appunto delle interferenze. Per dirti, no? Ecco, tornando sempre ai numeri, come vedi i numeri sono importanti, ma poi naturalmente, ripeto, l'esperienza della persona, e questa è vale moltissimo, quanti i numeri e forse anche di più. Sì, infatti, ma io ripeto, questi calcoli preferisco farli fare oramai agli strumenti per poter avere il calcolo finale, che alla fine poi è quello che ci interessa. I fattori di velocità, tutte queste belle cose qui servono per la qualità dei cavi, ma se già li conosci non è che ogni volta ti metti a fare il calcolo dei cavi. Il problema è sempre quanto ti arriva poi da un punto all'altro e se puoi migliorare questo parametro. Per fare questo ovviamente io con uno strumento, io fortunatamente ne ho di abbastanza buoni, ad esempio qua un misuratore della Racal, ovviamente di seconda mano perché da nuovi non sono comprabili, proprio per determinate misurazioni, poi c'ho anche il c'ho un rig expert per la taratura che mi dà tutti i parametri da zero fino a 500 MHz, se non ricordo male, e c'ha anche il software che ti fa vedere dove c'è un'interazione di cavo, dove ci sono dei punti critici, dove ci sono le giunzioni, dove ci sono i PL, e quelli ci vogliono, quindi prima sono quelli che ti danno i numeri veri, quelli reali, quelli che ti dicono sì, vabbè, tu hai fatto il cavo, sì, hai fatto bene, hai salvato il PL, sì, però guarda che qua di potenza arriva a poco quel tipo di cavo che stai usando, e quindi lì devi scovare cosa è successo. Tu fidati che io il cavo, quello che ti dicevo, il cell, perché è sottoterra, quindi se succede qualcosa praticamente pala e picco, e se ci riesci vi vittoria, perché poi è un cavo, insomma, quanto sarà grosso questo, per farti un esempio, quanto un tubo d'acqua normale da un quarto di pollice, credo, quello... Vabbè, comunque c'è quanto un tubo di bicicletta, ecco, per dire, quando un tubo centrale di bicicletta, forse anche qualche cosa sta in più, e quindi se succede qualcosa lì, un cavo robustissimo che non può neanche piegare con le mani, allora il problema può essere molto serio, perché poi devi fare anche le giunzioni particolari in modo che non sia l'espressione del segnale, insomma, guarda, l'ho fatto alcuni anni fa che ero in forma, se succede qualcosa adesso, dato il traffico che c'è, ci faccio due pensieri miei e lo faccio morire lì, perché già salire sul traliccio non è tanto fattibile oramai, anzi è anche pericoloso se vogliamo, però è così, capito? Strumenti e stare sempre a guardare cosa si fa. Certo, gli strumenti sono importantissimi e devono essere anche quei strumenti ben sofisticati e precisi, perché ci sono vari strumenti che magari le misure giuste non te le danno nemmeno, ma ci sono strumenti che costano un occhio della testa e però hanno un valore stimabilissimo, per cui è quello importante. Certo, ma io mi ricordo, cioè io questi discorsi li faccio perché già da allora, quando io facevo l'antennista, questi discorsi me li faceva chi ne sapeva più di me e mi ha insegnato quello che so. Ecco, per dirti, tu mi dirai, ma stai parlando di televisione? È lo stesso discorso, guarda, non è solo che non essendoci la trasmissione non ce ne rendiamo conto, però anche l'antenna TV, alle stazionarie, sembra strano, no? Se tu lo dici a una qualsiasi persona che usa la radio trasmettente, dice ma cosa stazionaria, ma cosa... Eppure ti posso assicurare che anche l'antenna TV ha le stazionarie, e perché no? E queste sono cose che io ho anche dei libri che ne parlano abbondantemente, in maniera specifica anche. E allora io mi ricordo che quando andavo per dire a piazzare le antenne alla parte di via Oriani, in quella zona lì, no, un via Umberto Alto, non c'era rimedio di far entrare il segnale nella maniera più assoluta. E si faceva un dipolo, si faceva sull'antenna. Le antenne allora erano quelle che erano, i trasmettitori erano quelli che erano. Se noi allora puntavamo l'antenna, anziché a Monte Oro, all'Imbara. L'Imbara entrava meglio, però perché facevamo questo dipolo, che era sempre un cavo, un cerchio praticamente di cavo TV, di quelle di una volta, e per trovare l'esatta misura, una volta che lo facevi, per dire, non so, 70 cm di cavo, lo attaccavi al cavo di discesa e all'antenna, e poi lo infilzavi con un punteruolo e facevi il contatto fra la calza e il polo centrale di questo dipolo, no? E trovati il punto esatto che significava la lunghezza effettiva che doveva essere questo riporo. Per dirti, no, ecco, tornando sempre al discorso dei numeri, i numeri ci sono, però poi servono sempre, serve sempre l'esperienza dell'uomo, è ovvio, ma è normale, oh, Gianfra. Sì, poi è evidente che quando parliamo di stazionari è forse un termine un po' abusato, ma in realtà le stazionarie ci sono a prescindere, ci sono stazionarie basse, quindi antenna cordata, in maniera seria significa sì più trasmissione, quindi maggior perdita di potenza, ma sia soprattutto ricezione è la parte più importante. A ben poco aumentare la trasmissione è facile mettendoci dei lineari, aumentando la potenza artificialmente, però la ricezione ti viene un po' in salita, perché anche se metti amplificatori ne porti tanto di quella porcheria che non andrebbe bene. Questo vale sia per le TV sia per qualsiasi altro apparato, soprattutto in alta frequenza. Ed è così. No, io devo dire, da qualche giorno periodicamente, ad esempio su determinate frequenze in alto, in UHF, mi capita di sentire delle emissioni probabilmente che arrivano da canali tipo Rete 4. Adesso, se fossimo 10 anni fa, quindi forse 20 anni fa, uno potrebbe dire: cavolo, quello è molto euro che sta rompendo le scatole, cosa che invece non è, ahimè, non è, perché se uno ci pensa un attimo dice no, non può essere molto euro, perché oramai il segnale è digitale, quindi il disturbo non lo sentiresti, non capiresti neanche da dove arriva. Probabilmente qua in zona qualcuno ha messo qualche vecchio videosender per trasferire i segnali televisivi da stanza a stanza, e questo qua, a seconda di dove magari lo mette, questo ampliato o quando lo accende, comunque provoca questo disturbo. Tieni presente che le case vicino a me sono a distanze, ognuna è di 500 metri, forse anche qualcosa in più, quindi abbastanza distanti, e quegli affari imbattono molto poco. Però siccome anche io ne ho uno vecchio di questi aggeggi che causano tutto questo casino, mi ricordavo la frequenza di trasmissione da un apparecchietto all'altro, quindi per andare da una stanza all'altra con lo video, era su una frequenza elevata, quindi qualche giga, mentre quello audio, che era separato stranamente, perché non essendo analogico, lo mandavano proprio in UHF. Quindi evidentemente tutto questo disturbo provocato sulla 430 è proprio da questo genere di apparecchi, che sono vecchi. Quindi ciò per dire quanto è facile che tu puoi avere anche una buona ricezione, un impianto fatto adatto, e poi ci si mettono questi giocattolini che ti causano questi inghippi, capito? Sì, beh certo, quello diciamo che sono interferenze. Io ad esempio l'interferenza la trovo su canale 153, che è un canale sportivo, praticamente top calcio 24, io seguo molto il calcio, e alle volte, soprattutto la notte, ci sono delle sovrapposizioni di immagine, ma sono dei segnali provenienti da altre magari TV o che si sovrappongono, e allora per qualche momento ci sono dei disturbi, come ad esempio immagini distorte o immagini tutte contorte, oppure quadrature, tutte queste cose qua, ma sono cose passeggere che sono evidentemente scivolamenti di frequenze da altri trasmettitori che si accavallano appunto su quella frequenza di quel canale, ed ecco che si disturba la vicenda, si disturba. Succede questo, sì, ad esempio tu che abiti a Monteoro so che lì ci sono dei segnali fortissimi, e i segnali alla televisione in certi posti, in certe case è impossibile vederlo bene perché vanno in saturazione, però il rimedio c'è, perché mi ricordo io, dopo che allora facevo già il falegname dopo tanti anni, un giorno mi chiama un operaio dell'Enel che lavorava all'Enel, allora adesso non lo so, sarà in pensione anche lui, avevo fatto un lavoro di falegnameria, l'ho consegnato, ero lì a casa sua e io stavo montando. A un certo momento ho acceso la televisione e c'erano queste interferenze che non finivano mai, non era possibile. E c'era come mai, ho detto, come mai questa televisione si vede così? Fatto, ma non riesco mai a vedere la televisione qua perché pensare che sono sotto Monte Oro. Secondo lui, essendo sotto Monte Oro o vicino di fronte a Monte Oro, dovevo vedere bene, ma questo chissà perché non vede lì, perché c'è troppo segnale, perché sappiamo benissimo che c'è una soglia sia in entrata che in uscita. Se è troppo esagerato ci sono interferenze, se è scarso ci sono dell'immagine nevata eccetera, non nella TV. Ed ho detto, ascolti, mi dica una cosa, c'era un pezzo di vipola, di piattina lì che fa l'esercizio? Sì che ce l'ho. Allora me la dia che gli faccio una cosicina, vedrà che vede la televisione. Ho preso e gli ho fatto un bipolo, mi dia un pezzo di legno, fa tipo croce, facciamo due pezzi di legno e mettiamo la croce, l'attacco lì. Beh, lo sai, gli ho fatto questo bipolo e vedevo la televisione che era un'immagine, una fotografia, era perfetta. Perché cos'era il problema? Che andava in saturazione il segnale, era troppo, ci voleva un riduttore di segnale. Sì, quello capitava all'epoca dell'analogico. Adesso oramai tutte quelle cose sono appartengono al passato, ai libri di storia. Quello che si vede adesso, diciamo, caratteristico del digitale è che ti può capitare di vedere dei quadretti sull'immagine, quello è dovuto a due fattori, il fattore classico è praticamente, anzi il fattore totale è che alcuni pacchetti inviati dalla stazione trasmittente vengono persi, quindi non riesce a comporre l'immagine, di lì entra in funzione la correzione d'errore che ogni apparato digitale ha oramai, che in base ai pacchetti totali prova a indovinare un po' di mettere quei battoncini al posto giusto. Però questo non sempre è possibile, soprattutto quando il disturbo è ripetitivo, quindi sai che non ce la fa più a riparare, diciamo così, il segnale, e quindi si creano questi problemi. Poi, nonostante le interferenze siano diminuite in maniera enorme col digitale, perché c'è meno potenza, c'è più precisione del segnale, tante belle cose, però anche lì se ci sono dei disturbi provenienti o delle armoniche ancora peggio da altri apparati, siamo punto a capo, quindi purtroppo la tecnologia va avanti, però bisogna tener conto sempre di questi fattori che disturbano i segnali, e non sono pochi in quest'epoca. Lo so, ci sono tanti fattori, oggi è tutto diverso, oggi col digitale soprattutto è tutta un'altra storia, certo, è una frequenza molto più filtrata, eccetera. Ma prima a volte era proprio un problema veramente, era un problema. E vabbè, comunque, infatti a quel tipo di lavoro ho detto, beh, vado da Fusano, si fa dare un attenuatore di segnale, e si fa dare, e vedrà che risolve questo problema, perché ce lo vendo, non certo che lo vendo, lui vado da Fusano, le ponga il problema e vedrà che lo risolvono loro. Sono del mestiere e le sanno dire che cosa montare per attenuare il segnale, perché se c'è saturazione di segnale, se è scarso si vede male, se è troppo esagerato. Adesso io parlando sempre di analogico, mi sembra che la soglia era quella, intorno ai 55-60 al minimo, 90-95 al massimo, oltre si andava già in saturazione, o meglio si andava in interferenze, e mi ricordo che i segnali erano quelli allora. E vabbè, quando noi ci attivavamo le antenne avevamo il misuratore in campo, era diverso e sul tetto, perché sembra strano, basta un metro di distanza da un punto all'altro del tetto e c'è differenza di segnale. sono delle cose strane, se la prende la testa, uno si prende la testa, però uno che ha fatto quel mestiere ci arriva e risolve, sì, a volte risolve, ma sono delle volte che non risolve, anche purtroppo. Io ad esempio adesso qua ho anche altri apparati digitali, cioè altri apparati che sono accesi, mentre stiamo parlando mi sta segnalando che ci sono dei disturbi su una banda VHF, perché mi dà segnale dove non ci dovrebbe essere. E qua stiamo parlando di un apparato monobanda con dinamiche enormi, veramente a livello professionale, cioè lo stato dell'arte stiamo parlando. Se io dovessi accendere, c'è un altro apparato, sempre così, è monobanda, un altro che è bibanda, anzi duo banda, che è l'FT100, dovrebbe essere della Yaesu, anzi l'FTD, che è un apparato digitale e analogico, che è il secondo come topo gamma. Io c'avevo anche il primo, quello che non so se conosci, questa parte l'FT400, l'FTD400, anche quello digitale, ma ti posso assicurare che benché siano, loro dicono, lo stato dell'arte eccetera, sono presi, sbattuti a terra e investiti con la macchina, perché secondo in che frequenza ti capita fanno delle reazioni di immagine che è qualche cosa da paura proprio, sono molto sensibili e tutto quello che vuoi, però la sensibilità spinta tanto non serve a niente, perché poi ti compromette la ricezione. Sono apparecchi costosi anche questi qua, gli altri professionali che sono addirittura monobanda e che sono più indubbiamente più performanti, forse altro perché devono rispettare delle norme severissime, e nonostante tutto anche loro qualcosa la ricevono, perché sono segnali che proprio lì non ci dovrebbero essere, invece ci sono. Quindi digitale o no, la situazione è sempre così, in bilico, è un pochino migliorata rispetto al passato, ma i disturbi continuano ad esserci. Aspettiamo cosa succede quando metteranno la 5G, quindi banda 700 MHz, che attualmente verrà tolta alle televisioni. Staremo a vedere. Tu immaginati quando cambiano la frequenza, se mi costringono a cambiare i televisori. Io qui a casa ne ho 5 televisori salvati, perché io ho una casa che ha più di 1000, no? Per cui dovrei cambiare i televisori, a meno che non fanno qualche decodificatore o qualche ricevitore, appunto, che come quando hanno fatto lo scambio dall'analogico al digitale. Vediamo un po' che cosa succede. Però io mi chiedo, oltre al fatto della televisione, perché ho sentito che la frequenza della televisione la passano ai cellulari, cioè ai telefonini eccetera, ma allora in questo caso anche i telefonini dovremmo cambiare, perché se cambiano frequenza non lo so con quale criterio non funzionerebbero i telefonini che abbiamo oggi. Questo si parla fra un paio d'anni. Non sono un paio d'anni, sono un paio d'anni, cioè perché dovrebbe essere il 2020, quindi tra 2 anni, che c'è lo switch off per molte cose. Rimane praticamente il Full HD con la televisione e entra in gioco l'Ultra HD. Per dirti una cosa, io vedo attualmente la televisione, c'è un televisore Ultra HD già, perché oramai da parecchi anni li vendono tutti, o perlomeno li dovrebbero vendere tutti compatibili Ultra HD, però io non utilizzo neanche il Full HD, perché dovrei andare sul canale 502 e mi dimentico sempre, per un motivo o per l'altro, di memorizzarlo. Però detto tra di noi, nonostante abbia, questo qua è un 43 3 pollici, no, una fascia intermedia diciamo, perché la stanza è piccola, quindi non ho necessità di metterci un 55 che mi farebbe tutta la parete, però è un televisore già molto grande, a schermo pieno, quindi non c'hanno più cornici, non c'hanno niente, c'hanno proprio la grandezza del televisore corrisponde alla grandezza dell'immagine. Però se devo proprio essere sincero e onesto, nonostante a me piaccia molto la tecnologia, ti devo dire che se vedo un film, se vedo qualcosa, io tutta questa differenza non la vedo. La vedo se vado a vedere le foto, ecco. Se vedo una foto, allora sì, ti posso dire, caspita, non è una foto, è un quadro, praticamente, è come gli animali li puoi anche toccare. Cioè se vedi delle immagini in movimento molto rapide eccetera, sai, sarà perché noi siamo abituati a vedere le immagini ancora dell'analogico, siamo ancora una generazione anche d'analogico, però tutta questa foga di avere le immagini in cui vedi il singolo pelo della barba alle persone mi sembra anche, come dire, un po' esagerato, ecco. Ma anch'io sono del tuo stesso parere, questa differenza tra l'HD e il normale digitale secondo me non esiste, a meno che, ripeto, come stai dicendo tu, se dovessero inventare un ultra HD allora dovessero ponersi che ci sia la differenza, però oggi come oggi io quando giro a 501, 502 e quei canali HD differenza non ne vedo, l'unica differenza che vedo è sul sistema, ad esempio io nel salone ho un 44 pollici, no? Sistema anche trasmissione per lo sport, lì la differenza va molto da vedere la partita in maniera normale oppure sintonizzata col sistema per lo sport, lì te lo vedo. Però tornando al discorso HD digitale normale, io differenza non ne noto proprio niente, premesso che ho un buonissimo segnale io qua e non ci sono dubbi, tu pensa che io se stacco il cavetto che va dal TV alla presa a casa, la stacco e la tengo vicino senza inserirla dentro la presa, vedo la televisione, tanto per dirti, no, il segnale qui è eccezionale, no, problemi non ce ne sono, infatti io partitori quando ho fatto l'impianto qua non li ho utilizzato, ho messo le prese che vanno in caduta, no, da una presa all'altra, cioè le prese passanti e poi la finale, quella di chiusura, che è quella famosa dove ci vuole la piccola resistenza, anzi la vendono già pronta. Mentre invece di solito si dovrebbero utilizzare i partitori eccetera, io non ho avuto bisogno di fare quello, ho risparmiato parecchi soldi e anche parecchio lavoro a riguardo dei partitori, io ho fatto da presa a presa e ti posso dire che tutte le prese che ho io qui, e ne ho parecchie, le prese TV, vedo la televisione che è una meraviglia, è una cartolina tutta bella, chiara. Sì. Le parti del calcio, se ti riferivi a Sky, quelle lì, molte utilizzano già dei protocolli ultra HD, quindi c'è dei filmati in ultra HD. Poi non so se siano immagini dirette, registrate, comunque quello c'ha poca importanza, però ci sono già dei segnali ultra HD. Per quello che riguarda invece il segnale, come lo intendiamo noi qua a 27 o anche in altre frequenze, dobbiamo stare attenti a non fare confusione, perché la caratteristica migliore del digitale è proprio quella che lo fa apprezzare, soprattutto nelle telecomunicazioni radio, fonia, dati, eccetera, è il fatto che qua non abbiamo il problema del sentire bene o non sentire. Qua abbiamo il problema che il pacchetto, cioè immaginiamo, quando pensiamo al digitale dobbiamo pensare a un corriere che ti porta il pacco, di norma il contenuto del pacco, tu apri il pacco e dentro c'è l'oggetto che hai chiesto. Adesso che che questo pacco percorra 100 km in mezzo ai sassi, in mezzo all'asfalto, paragonando l'asfalto al segnale, in poche parole che sia S1 o S940, la differenza del pacchetto che c'è, se è arrivato intatto, è la stessa, quindi il pacchetto che ti hanno inviato corrisponderà al pacchetto che è stato ricevuto. Non così purtroppo è un analogico, perché dovendo viaggiare l'analogico per sua natura perde parte del segnale, cioè parte del messaggio che tu metti nel segnale, soprattutto anche in base alla orazione. Ad esempio qua noi ci intendiamo con la M, ma già l'FM sarebbe meglio. Se poi, prima o poi lo faranno anche il 27, me l'auguro, un sistema digitale, non potremo più dare controlli, che so, S920 ti sento bene, S7 ti sento male. No, magari ti sento benissimo S2 e ti sento male 940, perché i pacchetti arrivano saturati, quindi distorti, e non vengono interpretati bene. Capito? Però la differenza, cioè il valore di segnale, come lo intendiamo noi, soprattutto qua nel 27, non avranno più importanza. Avrà importanza il cosiddetto la qualità di segnale, come arriva il pacchetto, quindi come arriva l'oggetto che è stato inviato. E questa è una cosa molto positiva, ecco, perché anche a segnale 0, a segnale 1 riceverai benissimo il messaggio che ti viene dato. Sì, quello è vero, beh certo, quello è vero, ne sono consapevole di questo particolare qua. Sì. Tornando un attimino al discorso ricezione TV, tu sai benissimo che nel televisore puoi controllare sia la qualità in percentuale che la percentuale del segnale che è in arrivo, no? E qui arrivano quasi tutti al 100%, ti puoi immaginare, quindi va bene, sono sotto Monteolo, sicché il segnale mi arriva fortissimo qua, e il più basso che mi arriva guarda, è il 95%, e così indicati anche per la qualità del segnale, non solamente per la potenza del segnale, ma anche la qualità del segnale o di altra. Per cui, per dirti, no, oggi col digitale lo sappiamo, è importante quello, soprattutto la qualità, non tanto la potenza quanto la qualità. E come hai detto tu, appunto, anche con un segnale basso, però la qualità buona, e tu vedi tranquillamente e ascolti quando sei in trasmissione o in ricetrasmissione, per dire meglio, senti bene e ti ricevono anche bene, non ci sono dubbi, è così infatti. Infatti è una delle migliori caratteristiche del digitale, speriamo che tra l'altro tra poco dovrebbero estendere, perché ci dovrebbe già essere il famoso DAB, Digital Radio Broadcasting, per le radio FM, così almeno ci tolgono fuori dalle palle quelle emittenti da 88 a 108 che lavorano con centinaia di watt, anzi con parecchi kilowatt, che sono una fonte di disturbi e di inquinamento micidiale. Col DAB almeno abbasseranno le potenze, si riceverà stereo, riceverà immagini, riceverà messaggi e chi più ne ha più ne metta, con una frequenza, con un'occupazione di frequenza guarda, ce ne stanno credo almeno 5 su un'attuale frequenza stereo di emittenti. Così, vediamo cosa succede. Piuttosto, adesso mi è venuto a mente, te lo volevo chiedere da prima, Giulio, un'informazione. Mi confermi, siccome l'ho sentito nel mio ambito lavorativo, però poi non ho chiesto, mi confermi che non ci abbiamo più, tutto fare parlato di Fusaro, la signora Giovanna non c'è più quest'anno? Diciamo così. Sì, l'avevo saputo e mi è dispiaciuto, perché io con quella persona ci avevo anche un buon rapporto, perché è una donna che io ho conosciuto da tantissimi anni fa, e tutte le volte che andavo da Fusaro facevamo una chiacchierata proprio amichevole, in amicizia addirittura, nonostante la differenza di età che ci contraddistingueva tra me e lui. ti spiego, perché io per anni sono andato sempre da Fusaro. Negli anni 70 e 80 io costruivo dei microfoni per la 27, tu ce l'hai presente il Turner più 3 da tavolo, o il famoso microfono per la 27, io lo facevo esattamente in legno, uguale, identico, stesse misure, con le stesse funzioni, ed era una meraviglia. E avevo, ho riempito Sassari allora, in quegli anni lì, di microfoni di legno. Un sacco di persone avevano un microfono di legno costruito da me. Il circuitino invece l'avevo copiato da un SBE, mi avevano dato una volta un microfono, anzi ce l'avevo io, che me l'avevano dato perché poi ce l'avevo, un microfono è della SBE, e io con tanta pazienza ne ho ricavato lo schema elettrico o dalla basetta direttamente. E ho avuto la costanza di controllare tutti i componenti e me li sono segnati, me li sono portati prima su carta, me li sono portati, e poi ho incominciato a costruirmi, siccome ho fatto anche un po' di radiotecnica quando facevo l'elettricista, perché ti spiego come. Io rientravo dal cantiere la sera, no? Dopo che facevo gli impianti elettrici, e dove lavoravo c'era anche l'angolo della televisione, c'era il radiotecnico, e io allora fino alle 8 di sera stavo a fianco a lui, perché non era orario di fine lavoro per me, e stavo a fianco a lui, e dunque un po' di radiotecnica l'avevo imparata, no? E facevo appunto questi microfoni di legno, ma era una meraviglia, e andavo sempre a comprare tutti i componenti della signora Giovanna, però che mi faceva già lì, se ne ricordavo addirittura la memoria i componenti che chiedevo, era in gambo quella donna, mi dispiaciuto molto. Peccato, perché era la numero uno per conto mio lì dentro. Sì, infatti. C'aveva comunque la sua età, perché quando ci andavo io mi ricorda, diceva sempre, io me la ricordo quando lei veniva a comprare questa, a comprare quell'altra, quindi c'era anche un'ottima mela, c'aveva anche una certa età evidentemente, perché la sorella in effetti, adesso non so se chi ci sia, se il negozio ci sia ancora, perché sono da molto non ci passo, c'era sempre la sorella, stavamo sempre insieme, giustamente, però mi sa che è molto più giovane. Sì, beh, la sorella c'era una differenza di età abbastanza notevole. No, adesso diciamo l'unico che veramente vi è capace è Antonello. Tu quando devi chiedere qualcosa vai da Antonello, perché se ti rivolgi a quelle donne sono, diciamo, molto limitate nella conoscenza sia dei materiali che hanno, che anche dell'elettronica. Ma tu chiedi a Antonello già è uno che è capace, dai, già è bravo lui. Per dire, no, così Giovanna ne conosceva, sapesse quante antenne TV che ho comprato, perché il principale poi mandava sempre a me a comprare le antenne, lì, tutto quello che ci voleva, antenne, miscelatori, i cavi, tutto quanto. E mi diceva, vai, passa da Fusaro, prendi una corrente e vai a piazzare l'antenna, mi dava l'indirizzo a questo cliente. E io facevo così, sicché per quello che con signora Giovanna avevo un certo rapporto con me, capisci? Comunque aveva superato gli 80, confermi. Io penso anche gli 85, penso che avesse superato anche gli 85, suppongo, non lo so di sicuro, però suppongo che l'avesse superato. La stessa cosa, lo stesso anche per quello che ha nominato prima, Antonio Scarpa, che mi ricordo, penso che fosse già grande quando andavo io di via a comprare qualcosa, che ha avuto sempre la base principale in via Punizzeda, comunque. Sì, con Antonio Scarpa abbiamo lavorato esattamente da Pino Mu, ti ricorderai il negozio che c'era una volta, che si concedì a Costa, via Santa Maria, no? Abbiamo lavorato insieme, con Antonio Scarpa abbiamo lavorato lì insieme, poi lui era andato via ed era entrato con Pintus in via Cavù, e col tempo era entrato in società, e poi la società si era rotta e si è messo in proprio, e appunto dove ancora, ecco, ci sono lì Antonio Scrappa. Mi ricordo quell'Antonio quando andavamo insieme per fare le antenne in pieno inverno, sui terrazzi, però c'era freddo, aiuto che ci scaldiamo, e ci mettevamo, eravamo ragazzi tutti e due, ci mettevamo a fare il pugilato per scherzo naturalmente, no? E ci scaldavamo, allora attaccavamo a incominciare poi, ma senza scarpello, a piazzare le gaffe, perché mettevamo anche le gaffe, noi mulate col cemento rapido, no? E poi salvavamo l'antenna con Antonio Scrappa, e siamo amici da sempre, non dico dall'infanzia, ma quasi, da giovanotti, dai. Comunque c'è ancora lui? Sì, certo, c'è lui, c'è sempre, certo. E aveva anche un altro negozio, adesso non mi ricordo come si chiama, se era un euro o l'altro, insomma, aveva, però c'era il figlio lì, ma so che lì è andato male. Sì, Expert, c'era Expert che di fronte lì al coso del Carlini, quello del gasolio, non so, più avanti del fornitore comunque. E quello sì, proprio maluccio, non ho avuto fortuna, correnza troppo grossa. Anche gli altri anche stiamo meglio comunque, oramai è così. Mentre invece la GBC mi sembra in netto, proprio in netto, tramonto, ma è normale comunque. Sia per uno sia con l'altro, Fusaro si ferma, si salva più che altro con la roba televisiva, ma per tutto l'altro oramai, se parliamo di roba seria, devi andare fuori, ordinare via online, perché la maggior parte dei componenti sono talmente complessi, talmente portarli qua sarebbe talmente costoso anche, che qua te lo vende 10 che magari poi guardi costa 1 euro, 2 euro, quindi fai prima a comprarlo online. Tanto è vero che oramai stanno facendo un po' tutti molto poco, ma non perché i settori sono molto specializzati, la componentistica oramai te la fornisce la casa direttamente e sono processori spesso delicati, quindi è tutto più complicato sotto quel punto di vista, e tutto si deve fare praticamente online, che fai prima e ti costa anche molto molto di meno. Purtroppo è così, vabbè, caspita, passa ogni anno comunque. Io mi ricordo ancora la GBC quando mi facevo la strada da Cappuccini fino a sud, Savasica, perché è stato sempre lì da tantissimi anni, e forse credo che sia anche Fusaro, per la verità, è stato sempre lì. E mi ricordo ancora perché ero ragazzino, andavo lì a prendere oggi un alimentatore, e eravamo parecchio distante, ma allora da giovane la salita non ti faceva niente. Sì, beh, certo, lo credo, hai detto da un'altra cosa, lo credo. Figurati a me allora, che io ho fatto 15 anni di sport, le atlete careggera, facevo ammazzatore, figurati se mi potevo fare perfetto, ho paura il camminare, vabbè, eravamo ragazzi e tutta un'altra storia. Sì, ho già fatto, ma è così, in effetti è così. Comunque, secondo me, a Sassari, per me è sempre stato un Fusaro, il numero uno, per quanto riguarda i negozi della vendita di materiali elettronici, eccetera. C'era un po' Melchioni, ma prima, in quegli anni lì, già era discreto anche del Melchioni. Poi si è spostato, e adesso non so se c'è ancora, ma l'ultima volta che c'ero andato, per esare un paio d'anni fa, nemmeno la luce accendeva, per carità, non era possibile continuare, anche perché poi l'aveva rilevato uno di quei dipendenti che c'era prima, dove era la prima volta, diciamo, dove era il negozio di Melchioni, vero, poi l'ha rilevato questo giovane, ripeto, nemmeno la luce accendeva, quando entravi c'era un buio, capita. Dovevi entrare con la torcia elettrica, dovevi entrare per trovare il banco. Vabbè, io ho esagerato un po'. Sì, perché forse tra l'altro è una zona strategica anche, perché perché era una zona predanietta, insomma. No, non c'è più, tutto chiuso, tutto cambiato, ma ripeto, d'altronde c'è la concorrenza da me su quelle antenne, vai, fanno tutti da Bricoman, ce n'è per tutti i gusti, poi c'hanno anche Pale, eccetera. Sta resistendo Giorgio Grassi, che è specializzato nell'antenna, ma è uno di quelli che ha saputo un po' di diversificare, perché vicino c'ha quello che piazza le antenne per internet, poi alcune altre cose, eccetera. Però sempre stringendo la cinghia anche lì. Poi di fronte c'è Franco Ennas, che c'è ancora e si occupa anche lui di impianti, però lui molto intelligentemente ha diversificato un po' tutto e quindi su fa oltre alle installazioni di autoradio in macchina, fa il coso satellitare per internet, insomma tante cose diversificate che bene o male tira campana, capito? Però chi non si aggiorna chiude, c'è poco da dire. Sì, ma certo, ormai con questi grandi negozi vendono i televisori anche a costo anche basso. Io mi ricordo c'era un ex commesso di Rosa, che è un parente di Franco Ennas, premesso che sono anche amico io di Franco Ennas, che conosciamo benissimo da quando lui lavorava addirittura con Nino Letta. Allora Nino Letta costruiva mobili, costruiva, c'era il negozio anche in via Rosello, e lui insieme a Paolotto erano i tecnici, anzi lui ha imparato da Paolotto, ha imparato a fare il radio tecnico ed è diventato un bravissimo tecnico. Franco Ennas è uno dei tecnici più bravi che abbiamo mai avuto qui a Sassari e forse anche in Sardegna. Quindi, ti stavo dicendo, c'è questo parente che mi aveva raccontato che da Franco Ennas portavano dei televisori a riparare, parlo dei televisori, quelli a tubo cattolico di allora. Ma questo risale a qualche anno fa, questo discorso, e lui mi controllava praticamente cosa succede quando un radio tecnico controlla qual è il difetto, si cambia componente, però in realtà la riparazione è praticamente fatta, se vogliamo, no? E fatto sta che riparavo questo televisore e non lo ritiravano mai. Allora aveva imparato un pochino, il televisore mi lasci per sì, lasciami una cauzione di 25-30 euro, mi sembra che lo chiedesse, e dopodiché poi dalla riparazione le abbascontiamo questa cifra. No? Beh, nonostante che lasciavano la cauzione, perché nel frattempo c'erano questi negozi di oggi, o meglio ce n'erano, non come oggi, ma ce n'erano, la gente non andava a ritirare, nonostante che avevano pagato questa cauzione, non andava a ritirare il televisore riparato. E mi ha raccontato questo suo parente, credo che sia il suocero o qualcosa del genere, adesso di preciso non te lo so dire, e faccio sta parente, e dice che ne ha buttato via una volta un camion pieno di televisori, tutti funzionanti, tutti di quelli al tubo cattolico, no? Li ha buttati via perché nessuno ce l'aveva anni nel laboratorio e non erano mai andati a ritirarlo, per dirti, no, come cosa succede. È chiaro che poi Franco è una persona molto intelligente e si adegua ai tempi di oggi e dunque continua ad andare avanti, ma vende anche altre cose, penso che venda anche caffettiere, queste cose così, questi elettrodomestici anche penso che venda. Sì, vende parecchia cosa di che poi che puoi comprare in negozio, diciamo, che magari qualche altro non c'ha, tipo connettori particolari per gli autoradio, eccetera, eccetera. E comunque riesce a lavorare comunque. Perché tutti gli altri negozi, poi quelli che riparano TV oramai sono pressoché KO, perché lavorano solo con qualche problema in garanzia, ma tu sai benissimo che adesso i televisori, non avendo più componenti critici, tipo trasmotto di riga, quelle cose lì, quindi alte tensioni, quando è stato riesplodere, ma oramai è totalmente miniaturizzato, che sviluppa anche poco calore per sviluppare pochi consumi. Da un televisore di oggi rispetto a un cattolico, per quello che comprava quello cattolico c'erano i metri 10, capito? Quindi altri tempi, altri sistemi, poi lo apri, è tutta una cosa talmente piccola che dà paura. Quindi si limitano a cambiare qualche scheda e di lì si chiude, però di altro non c'è niente. Poi c'hanno il problema che, perlomeno per quello che mi riguarda, io ho televisori sia della Samsung sia dell'LG, l'ultimo LG, e devo dire che vanno benissimo, sono anni e anni che non ho guasti, e dopo 5 anni ovviamente un televisore non lo puoi riparare, lo devi cambiare perché è già vecchio. Quindi non stai lì a portarlo da un riparatore, se si guasta lo prendi, lo porti al gente, torna molto al secchio. Capito? Già molta gente butta i televisori nuovi, perché cioè nuovi, nel senso che hanno 5 anni, magari è uscito il televisore più piatto, quindi lo prendono, lo regalano, o se nessuno vuole lo buttano a parte, ecco. Perché c'è anche questo fatto, quindi è chiaro che chi faceva prima con la professione adesso è chiuso praticamente, no? Cosa vuoi fare? Ti manca proprio il lavoro, nel senso che non c'è. E infatti ormai non c'è più un lavoro come una volta, anche perché la gente per andare a ripararlo poi se lo compra oggi uno, se proprio vuole avere il televisore con 200 euro, 250 euro ha il televisore, per dire. Poi naturalmente se lo vuoi buono e costa. Io qui ho, ripeto, 5 installati a casa, sono tutti a schermo piatto, sono, non, poi ne ho uno conservato in Massada che è buono ancora, quello lì però è ancora a tubo cattolico, quello lì, quello è antico, ma ce l'ho messo dentro un mobile su in Massada e ciò perché funziona, anche perché ha bei colori eccetera, ripeto, non è molto grande, quello lì è piccolino, mi sembra che siano 16 pollici, non mi ricordo bene, o 15, una cosa del genere, però mi dispiaceva buttarlo, mi si è considerato che funzionava. Cosa cazzo regalarlo ad una persona, ma no, dice, non lo voglio, di quelli, allora lascia stare, vai compratelo. Per dire, no, adesso non lo do, adesso me lo tengo, non si sa mai, mi si è guardato un televisore installato in una zona della casa, praticamente lo posso sostituire con quello, perché hanno preso a scarta tutto, è proprio un televisore, uno degli ultimi modelli dei tubi cattolici, però non lo uso più, ormai non lo sto usando più. Perché ne ho appunto 5 di tutti moderni, è quello che stavo pensando, se cambiano la frequenza della televisione e questa frequenza la trasferiscono poi ai cellulari, che problemi avremo? Boh. Anche col cellulare? E questo non lo so, comunque staremo a vedere, speriamo di no. Avanti Giorgia. No, problemi non ce ne saranno, l'unico problema sarà che se la vuoi ti devi comprare il telefono 5G, ma quello è, ma i telefoni 4G, 3G eccetera continueranno a funzionare, per quello che riguarda la televisione problemi non ce ne saranno lo stesso, perché tanto il televisore si cerca la sua bella frequenza digitale ti manda i soliti 3-4 canali che può contenere una singola frequenza, quindi problemi da sotto quel punto di vista non ce n'è. Niente, sì, hai detto bene, ma non solo, spesso ti si dice uno spende poco e si prende il televisore, ma questo dipende molto dalla marca, perché mi è capitato proprio a Auchan che uno stava guardando un televisore e dice questo costa poco ed è marca, non ricordo che marca era, Changsheng, una cosa del genere. Poi digiti su internet e ti risulta che sia la Samsung asiatica, anche se poi Samsung, LG eccetera sono tutte asiatiche, però magari quella marca lì è un brand di rilievo che qua in Europa non è importata perché non interessava al mercato europeo, però fa ottimi televisori. È tornata ad esempio la Kai, che è stata la fascia diciamo del consumo, che all'epoca diciamo tanti anni fa gli apparati a Kai erano di tutto rispetto, e anche adesso probabilmente sono buoni e comunque la componentistica quella è, non è che facciano ti guardi le caratteristiche, lo scegli e vedi e spendi 100-200 euro in meno, ma già questo per la qualità che hanno, per quello che c'è, ti fanno capire quanto oggi sia difficile portare a riparare un televisore che ha 4-5 anni. Uno dice ma cosa, mi prendono 200 euro, magari vado, ce ne aggiungo 50 e me lo piglio nuovo. Il discorso è tutto quello. Infatti appunto è quello, è per quello che i radiotecnici hanno perso tutto il lavoro delle TV per quel motivo, perché uno non lo ripara più, va e se lo compra nuovo, certo. È così, in effetti è così. E vabbè, quelli che ho io, diciamo, allora io ne ho tre che sono Samsung, questi che sono qua, insomma, e due LG. Ma devo dire che anche come immagine non c'è differenza, sono chiarissimi tutti e due, mi piacciono tutti, insomma. Se ricordo le marche di prima, Philips, Grundig, Sava, Vega, il radio, ce n'erano poco di marche di televisori. Io sono convinto che oggi la componentistica è sempre uguale, sia quelli LG che quelli Samsung, magari cambia per questione di commercio, di commerciale, cambiano la targhetta, però la componentistica suppongo che in linea di massima è sempre quella, soprattutto quando provengono da fuori questo tipo di televisori, cioè dall'estero. Diciamo che siamo sempre lì, ti possono mettere una tecnologia magari differente, non so. Tanto guarda, i televisori anche loro in realtà non sono altro che dei computer, hanno il loro processore, hanno la loro scheda grafica, hanno tutte quelle cose lì, sono dei veri e propri computer, quindi c'è poco da fare. Ti dico di più che attualmente, ad esempio, se uno deve comprare un televisore, le conviene prendere, come tutte le serie, diciamo, quasi tutte le UHD, quindi ad ultra alta definizione, conviene prendere dei televisori che abbiano anche la presa di rete o wifi comunque collegato a internet, perché molti dei contenuti che stanno oramai trasmettendo viaggiano su internet, quindi con un piccolo abbonamento ti puoi guardare, che ne so, tanti film per chi è interessato a film e tante altre cose. Nel mio ad esempio c'è lo stesso la possibilità di connettersi alla rete, tu figurati che le puoi dire quello che deve fare, perché i telecomandi hanno praticamente il microfono adesso, e tu le dici a postare a premere i tasti, cambia canale, oppure passa a vedere il film, oppure vai su Google e fammi la ricerca, anche guardando una trasmissione ti appare premendo un pulsante, un cerchietto in alto, che ti chiede se vuoi informazioni riguardo a quell'argomento. Tu premi il pulsante, che ne so, se è un film di guerra del quindi 18 ti mette subito la ricerca, guarda dove 15-18, capito? Sono guarda delle macchine impensabili prima. Sì, oggi la tecnica è arrivata a fare dei passi da gigante veramente. Tu pensa che, tanto per dirtene una, mia figlia cambia il televisore dal telefonino, per dire, no? Si è installato sul telefonino che ha, un telefonino abbastanza costoso anche, ma lei viene a tre, ma li usa per il lavoro che fa, e da uno di questi lei cambia il canale della televisione, per dire dove è arrivata la tecnica. Adesso dimmi tu cosa c'entra il telefonino con la televisione, eppure ti dirò che riesce a cambiare il programma dal telefonino, così, senza bisogno di utilizzare il telecomando. La tecnica oggi è avanzatissima, lo sappiamo, siamo a livelli ultra, ma veramente oltre. Che mai poteva pensare di riuscire ad arrivare ad un livello simile col fatto della tecnica della televisione e soprattutto con i telefonini eccetera, o con i computer, e per carità, oggi col computer uno ha tutto, qualsiasi cosa che vuoi sapere ce l'hai, qualsiasi informazione, ma anche con tablet non ci sono problemi, tu vuoi vedere tutte le televisioni del mondo, anche con tablet li puoi vedere, basta installarti un sito che esiste e tu hai partite di calcio, pugilato, ciclismo, o film di ogni genere, da tutte le parti del mondo, anche dall'America addirittura, perciò si può immaginare la tecnica dove è arrivata, e non ci sono parole per poterla descrivere quanto è diventata grande. Sì, ok. Sì, quello lì lo fa, il mio trasferisce anche dal telefonino al televisore l'immagine del telefono, quindi se c'è dei filmati fatti sul telefono te li porta sul televisore, perché si riconoscono, si parlano fra di loro, no? Appena accendi uno lui riconosce l'altro e c'è questa forma di interconnessione tra gli apparati. Tu pensa che adesso stanno vendendo anche su Amazon una specie di cubo, adesso non mi viene il nome, in cui praticamente le puoi dialogare, cioè puoi parlarci, lui ti risponde, le puoi dire ad esempio quando entri nella stanza senza toccare niente, accendi le luci, accendi anche il televisore, poi spegni la luce, volendo poi anche apri il rubinetto, chiudi il rubinetto, accendi il riscaldamento, apri le finestre, chiudile, insomma un oggetto che fa domotica in maniera spinta, che costa una fesseria. Quello che costa è l'impianto domotico, quello sì, tu quando pensi che ti trovi per dire a Cagliari e tu controlli le stanze di casa tua tramite la domotica, per dire, no, dal telefonino, e vedi se c'è qualche intruso o meno, e tutte queste cose, non so, per dirti dove è arrivato oggi il progresso, una cosa, guarda, è incredibile, se si dovessero svegliare i nostri antenati morirebbero dalla spaventa, cos'è questa cosa? Noi non ci meravigliamo perché ormai siamo abituati e sappiamo che passi da gigante se ne faranno ancora, non è finita lì. Capita, già stanno cominciando a portare le persone sulla Luna, un giorno che ci sarà e che avrà le possibilità per poterlo fare, salirà anche sulla Luna. Quante cose belle, capita, quanto sarebbe bello magari da qui a 100 anni esiste ancora per vedere che evoluzione ha avuto il mondo intero. Tu te lo immagini? Ma Giulio, in realtà penso che ognuno ci abbia la sua epoca e convenga passarla bene questa epoca. Se mi parli tra 100 anni probabilmente forse ci pentiremo di vivere così tanto, perché se a hai guardato o se hai studiato, diciamo, molti documenti fatti dalle scienziati, non sarà un bel vivere, perché già adesso ci stiamo lamentando. Tu figurati che proprio oggi al telegiornale è piovuto nel deserto, c'è stata un'inondazione a Petra, e questo la dice lunga di cosa ci sta aspettando. Ieri stamattina ero in bici, mi ha fatto la zona di Punta Giglio, e posso dire che anche lì tantissimi alberi distrutti, cosa mai vista, proprio sradicati letteralmente, radice tutta la terra. Qualche settimana fa, senza andare tanto lontano, mi dicevano che a Porto Torre sono cadute palle di ghiaccio, c'è col rischio anche di far male a qualcuno, quindi grandine formato gigante. Tutte queste cose, man mano che andiamo gli anni, sono destinate a peggiorare. Tu hai detto tra 100 anni, nel 2100, proprio nel 2100, ottimisticamente, tra l'altro, è stato previsto che l'Italia perderà, solo l'Italia perderà 5.000 km di costa, perché sarà invasa dalle acque. Quindi tu figurati, noi perdiamo tutto l'Oristanese, Porto Torre non so che fine fa. Non penso che sia un bel mondo, perché ovviamente ci saranno tanti sfollati. Nonostante tutto, diciamo, facciamo tutti un po' facciamo finta di niente, e non c'è rimedio, e non è che puoi dire facciamo così, facciamo quella. Forse neanche noi sappiamo cosa stiamo andando incontro, però è così. Sì, beh certo, oggi con tutto quello che si sta verificando, il fatto di meteo, guarda, c'è da pensarci seriamente, perché non è possibile continuare, ci sono tutti gli anni sempre più disastri, ma dappertutto adesso i disastri che stanno arrivando anche qui in Sardegna per quanto riguarda l'ibro geologico. Perciò non c'è da stare allegri, questo è vero. Sì, ma io ho sempre detto, il progresso è bello, però è anche un regresso. Se noi pensiamo a tutta la manodopera che abbiamo perduto col fatto del progresso, mi ricordo quando ero ragazza, per dire una, dove sono andato a abitare io, lì a Monte Rosello, dove abitava mamma, no? Lì c'era una squadra di uomini, saranno stati 70-80 uomini, picco e pala, che bancavano la piazza, e avevano fatto la piazza a forza di picco e pala, perché c'era roccia alta quanto il primo piano, per dire, no? E oggi invece va una cosa, come si chiama, una ruspa, una pala meccanica, in una settimana si fa chilometri di sbancamento di roccia, eccetera, e la manodopera non serve più in quel caso. Quindi sì, ho sempre detto, il progresso è bellissimo, indubbiamente, piace a tutti abbiamo usufruito del progresso, anche nel mio mestiere, ad esempio, prima si tagliava tutto a mano, si tagliava tutto a mano, si puliva tutto a mano, oggi è tutto a macchina, sicché bene bene, però tutto questo progresso ha fatto sì che abbiamo perduto tanta manodopera, tanti posti di lavoro, e così già fa. Quello è naturale, però diciamo che il discorso del progresso tecnologico va anche bene. Quello che fa male è che al progresso della tecnologia non è seguito il progresso dell'uomo, ecco, dell'uomo come persona. Può farsi anche le astronavi, però se le astronavi le fa per farsi la guerra, non è un grande passo avanti, ecco, capito? Quindi deve proseguire la cultura, deve proseguire una mentalità più moderna anche nei confronti della tecnologia che c'è, e invece dal punto di vista proprio della mentalità, tu pensa solo che in certi paesi del mondo scende la gente in piazza mica per chiedere mangiare o per chiedere lavoro, scende gente in piazza perché devono impiccare una donna, come succede in Pakistan. A me sembra una cosa preistorica, veramente. Siamo nel 2019 quasi, e ancora capitano queste cose, e quindi c'è poco da fare allegri. Ah beh certo, quello è vero, lì, ma quei popoli sono molto, ma molto indietro. indietro rispetto al resto del mondo, per carità. Non si può arrivare a tanto, non riesco con quale coraggio possano vivere in quella maniera, ma comunque. Vabbè, già dai, sono costretto a lasciarti, sono già le 8:10 circa, il tempo di cenare e poi la televisione che c'è la partita, Milan-Juventus, e io il calcio lo seguo sempre. Va bene, io ti ringrazio e ti saluto. Continueremo il nostro discorso magari se capita l'occasione, anche perché sinceramente parlando senza tu dire niente a nessuno, certi discorsi che abbiamo fatto non è che vanno a genio a tutti. Vabbè, comunque non voglio assolutamente creare nessuna politica, ci mancherebbe. È solo una mia idea, magari mi sto sbagliando. Ciao Gianfra, ti ringrazio per la chiacchierata, è stato per me piacevole, molto bello, e ci sentiamo la prossima volta. Dai, sul canale 23 cerchiamo di tenerlo vivo, così almeno facciamo qualche oretta alla radio scambiandoci quattro chiacchiere e soprattutto le idee. Avanti Gianfra, ascolto fino a lì e poi chiudo, vai. Sì Giulio, beh, non abbiamo parlato né di politica né di cose particolari, normale discorso, anzi il bello, forse il pregio maggiore che si può avere nella 27 è questo di avere 360 gradi di possibilità di parlare senza che nessuno abbia niente da dire. Se poi ce l'hai, benvenuto, ognuno ha la sua opinione, ma le nostre non erano neanche opinioni, erano date di fatto, quindi non abbiamo neanche espresso opinioni, quindi non credo che nessuno se la possa prendere. Va benissimo Giulio, buona cena, buona serata e ci sentiamo alle prossime, tanto oramai, come hai visto, perlomeno anche per tutto dicembre, penso anche per il fine gennaio, le giornate si accorceranno, quindi la radio sarà sempre accesa, si può dire, quindi ogni tanto la chiacchierata ci scappa. Ancora buona serata, buona cena, ciao ciao, ciao a tutti quelli anche sicuramente che si spera siano in ascolto. Ok, sì, ti ringrazio di nuovo per la chiacchierata, ho già fatto, alle prossime. Sì, no, io perché parto sempre dal principio, per me la radio, io l'ho sempre intesa, il dialogo principale dovrebbe essere sempre la tecnica, soprattutto l'elettronica. Vabbè, forse perché io ho la passione per l'elettronica, ma non tutti hanno la stessa passione che io, per cui gli altri parlano anche di altre cose e io ci sto, mi fa piacere ugualmente, ci mancherebbe altro. Ok, di nuovo ti saluto Gianfra, buonasera quando la farai, dai, io scendo perché sennò poi perdo qualche spettone di partita. Ciao, ci sentiamo, ciao, grazie ancora, ciao. Ok, quello vale più che altro per la frequenza amatoriale, magari quello che hai detto. Per qua vale molto meno, meno male. Ciao Giulio, buona serata ancora, ciao ciao. Ok, ciao Gioffa, ciao.